Il Sole 24 Ore. Allora, il Sole 24 Ore a pagina 3 comincia con il mercato borsistico internazionale. Borse, la Fed non arresta il tracollo. La Fed sarebbe la Federal Reserve, la banca centrale statunitense. Nonostante il taglio dei tassi e gli stimoli monetari, il Dow Jones crolla, meno 13%, la peggior seduta dal 1987. Lo spread intanto vola a 265 punti, sotto pressione i titoli a breve, torna in positivo il tasso bot a 3 mesi. La Consob intanto prepara lo stop per quanto riguarda le vendite allo scoperto fino a 90 giorni e non è da sola. E anche per quanto riguarda i beni rifugio, la situazione è piuttosto complessa: l'oro in affondo sotto i 1500 dollari, il platino e il palladio vanno a picco. Da bene rifugio è diventata una fonte di liquidità. Poi che cos'altro? Beda Romano inviato a Bruxelles, a pagina 5, l'Unione Europea chiude i confini esterni per salvare il mercato unico, le linee guida, stop agli ingressi in Europa per 30 giorni, ammessi i controlli sanitari nello spazio Schengen, ma la Commissione avverte garantire flussi commerciali e forniture di farmaci. E anche qui c'è l'articolo di Alberto Rioli che avevamo citato in prima pagina. Crisi istantanea, debito lungo, l'unica strada sostenibile per quanto riguarda i bilanci degli stati. E poi c'è Trump che ammette che la recessione è possibile. Non l'aveva mai fatto prima da adesso, anche perché diciamo, l'andamento dell'economia avrebbe dovuto essere il suo cavallo di battaglia in campagna elettorale. Poi che cos'altro? Le norme, diciamo, gli interventi del decreto l'abbiamo visto. Continua il corteggiamento cinese all'Italia in questa situazione molto complicata. A pagina 7 il presidente, anzi il segretario del Partito Comunista cinese Xi Jinping, dopo aver interloquito telefonicamente con Mattarella, lo ha fatto anche con il premier Conte. La Cina elogia l'Italia e la serie di misure risolute di prevenzione e controllo adottate dal governo italiano in risposta allo scoppio del contagio del nuovo coronavirus. Sostiene con forza ed è pienamente fiduciosa nella vittoria dell'Italia sull'epidemia, ha affermato Xi. La Cina invierà altri esperti medici in Italia, ha annunciato, ed è disponibile a lavorare con il nostro paese per contribuire alla cooperazione internazionale nella lotta alle epidemie e per la costruzione di una nuova Health Silk Road, cioè una nuova via della seta dedicata alla salute. Cioè, al di là poi dei fronzoli terminologici, diciamo una decisa collaborazione nel campo dell'industria farmaceutica, e anche questo, diciamo, è un dato piuttosto rilevante di cui prendere atto. Poi dalla Cina alla Germania, pagina 9, la svolta tedesca KfW, cioè la Cassa Depositi e Prestiti tedesca, dal piano Marshall a salvagente della Germania, una banca speciale molto invidiata in Europa che garantisce all'economia 550 miliardi di liquidità. Ancora si passa quindi a pagina 10 all'andamento vero e proprio del virus. C'è Milano che studia l'ospedale da 400 posti in fiera, operativo in 10 giorni, privati pronti a coprire i costi stimati in 10 milioni di euro. C'è il Sud che corre ai ripari con 1037 terapie intensive in più, i posti disponibili sono attualmente 1219 ed è corsa contro il tempo per raddoppiarli. Quarantena per 4 comuni, ha deciso De Luca in Campania, ci sono i piani di Puglia, Calabria e Sicilia. E poi c'è la curva dei contagi che adesso cresce di meno, la crescita non è più esponenziale, ma è lineare. I numeri sono ancora drammatici, soprattutto quelli delle vittime, ma ieri anche il capo della Protezione Civile Borrelli ha iniziato la lettura del bollettino quotidiano sulla diffusione del coronavirus come con un piccolo squarcio di speranza. È un segnale di quanto potrebbero darci tutte le misure adottate che va consolidato nel giro dei prossimi 1-2 giorni. Uno spiraglio arriva anche sul fronte dell'approvvigionamento di mascherine a più alta protezione. A breve si avvierà la produzione nazionale di mascherine. Poi ci sono gli insegnamenti per il futuro, la prossima sfida per l'uomo, un'alimentazione a prova di virus. Le recenti epidemie, scrive Agnese Codignola, pagina 12, dimostrano che per evitare il passaggio dell'infezione fra specie occorre rivedere le norme su vendita e consumo di animali selvatici, oltre che ovviamente l'allevamento intensivo. E questo non vale quindi soltanto per la Cina o per i pipistrelli, la cui zuppa comunque è da evitare. Per esempio c'è un riquadro molto interessante su le ostriche, contaminato un mollusco su 10. In Francia, in gennaio, contaminazioni da norovirus hanno costretto alla chiusura diversi allevamenti dopo la segnalazione di ben 179 focolai di infezione. Sempre dalla Francia, nel 2018 erano arrivati in tutta Europa frutti di bosco surgelati e contaminati da norovirus. Poi nella sezione economia e imprese, che si apre con quello che succede nei grandi stabilimenti industriali, da Leonardo FCA stop and go condiviso con i sindacati, i grandi stabilimenti si mettono in sicurezza per poi ripartire, parte nella produzione il protocollo d'emergenza fra di imprese e sindacati. E ancora per quanto riguarda i trasporti e la logistica, la Sicilia chiude, bloccati treni, aerei e navi. L'industria dell'agroalimentare, dai surgelati ai polli, qui siamo a pagina 15, l'alimentare rallenta i turni, la produzione si riduce per applicare le norme sulla sicurezza dei lavoratori. E poi che cos'altro nella sezione dedicata a finanza e mercati, quello che sta succedendo nel trasporto aereo, i big dei cieli vedono il baratro, il virus mette a terra gli aerei, crollo in borsa dei titoli, le compagnie cancellano fra l'80 e il 90% dei voli, secondo EasyJet non c'è certezza che le compagnie aeree riescano a sopravvivere. Intanto, per quanto riguarda l'Italia, arriva una Nucon, una nuova compagnia, e 600 milioni per tornare sotto l'ala pubblica. Prima lo spezzettino e poi gli asset migliori finiranno a una società dello Stato. E non ci dovrebbe essere molto altro, segnaliamo solo nella pagina dedicata agli esteri molte critiche anche sul giornale di Confindustria per quello che sta succedendo in Gran Bretagna. Johnson senza strategie precise, ora consiglia misure drastiche. Il premier britannico, criticato per l'inadeguatezza dei primi provvedimenti, in aumento i decessi, cresce la preoccupazione per la tenuta della sanità.